con Duccio Chiarini, regista del film L'Ospite, al cinema da giovedì 22 agosto 2019. Duccio, ben trovato. Buongiorno, ciao. Per chi ci ascolta, come lo descriveresti in breve? È la storia di un amore che finisce, un viaggio del protagonista che in seguito a questa rottura, questa inclinatura del suo rapporto con la fidanzata, mentre sta cercando di salvare il salvabile, di provare a rimettere assieme i cocci della sua relazione, e inizia un viaggio di formazione a bordo dei divani degli amici. L'idea è quella di raccontare un viaggio di formazione un po' tardivo, fuori tempo massimo, di un quasi quarantenne che dovrebbe essere uomo già da tempo e invece si ritrova a fare dei passi importanti nella sua vita proprio in un momento in cui tutto attorno sembra crollargli addosso. Come è nato tutto? L'idea è nata tanti anni fa, questo in teoria sarebbe dovuto essere il mio primo film, avevo scritto la sceneggiatura assieme a Davide Lattieri e Rohan Johnson nel 2010 e poi era nata l'opportunità in quel periodo di girare Sean Skin attraverso il Biennale Cinema College. Quando, dopo aver fatto Sean Skin, ho ripreso la sceneggiatura in mano, erano passati qualche anno, non tanti ma abbastanza per farmi cambiare il punto di vista su quella vicenda che ancora mi interessava lo smarrimento del protagonista, lo smarrimento di una persona che ancora crede in un certo tipo di coppie e di relazioni e che invece si trova a fare conti con una realtà diversa da come l'aveva sognata, immaginata lui, però c'erano anche delle cose che sembravano un po' distanti, quindi mi sono rimesso al lavoro, ci ho lavorato prima con Marco Pettinello e poi devo dire l'ultimo periodo in solitario, anche grazie all'opportunità di partecipare alla residenza del Festival di Cannes. Ed è stato proprio in quei 6 mesi là passati nella residenza che ho riscritto interamente il copione, che poi è diventato il copione che ho girato, insomma. Rispetto alla scelta del cast? Da subito, da sempre, ho pensato a dei nomi e dei volti più che altro, degli attori che potessero raccontare anche attraverso se stessi, attraverso la propria fisicità, attraverso quei volti appunto il mondo di cui volevo parlare, che è un mondo molto quotidiano, vero, fatto della vita di tutti i giorni, della generazione a cui appartengo, la generazione che è stata tanto all'università, che ha fatto del sapere, dell'educazione, della cultura, dell'iperformazione una chiave d'accesso al reale, spesso disconosciuta da questo reale. Quindi avevo molto chiaro in testa il tipo di attori che stavo cercando, magari meno di grido, ma con una solidità, con una verità profonda. E così sono nate le scelte di Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Toni, Anna Pellato, Daniele Natali, ma anche dei genitori, Pienattini e Marigliano. E quello del casting è stato un lavoro lungo che ha preso tempo, però che mi ha dato molta soddisfazione. E sull'importanza del divano? Il divano è un po', come dire, un simbolo, un'immagine che mi aveva da subito attratto, sin dalle prime battute, quando avevo cominciato a immaginare la storia appunto con Lattieri e Johnson, per questa sua capacità di sintetizzare la deriva un po', la liquidità, sembrava una zanna, l'ho sempre associato anche nei primi momenti in cui ho pensato a questa storia, quando io me l'ho trovato a dover passare di divano in divano in seguito a una rottura amorosa. L'immagine del divano è un'immagine molto sintetica ma anche evocativa della dimensione, della deriva dei sentimenti. La precarietà è esistenziale, accogliente, come dire, liquida. Non sapere ricordato una giattera. E con questa immagine ho costruito un po' le prime battute, le prime idee, e poi anche il punto di vista, il divano è un punto di vista insolito, nel senso che quando dormi sul divano in casa delle persone, poi la mattina al risveglio ti accorgi da quel punto di vista di tante cose che magari ti vengono nascoste nella ufficialità dei rapporti, nella frontalità dei rapporti come normalmente si svolgono. E la scelta di quest'uscita agostana? Quel tema della distribuzione richiederebbe puntate a sé. attraverso con la produzione, tra me abbiamo fatto l'anteprima a Locarno un anno esatto fa, poi siamo stati al Torino Film Festival, c'è stata da subito una grande accoglienza per questo film, però nonostante alcune distribuzioni avessero manifestato un interesse, poi questa cosa non si è concretizzata. prima di aspettare ancora, il produttore finalmente, Gian Tommaso, ha deciso che, rischiando, come dire, con la sua casa di produzione, nel senso che abbiamo fatto una distribuzione indipendente, è la stessa società di distribuzione che distribuisce il film, e quindi abbiamo pensato anche attraverso l'idea di un'iniziativa estiva di Movement, insomma, di approfittare di questa maggiore attenzione al cinema d'estate e di cominciare così da fine agosto. Sarà un'uscita piccola, però seguita molto attentamente, quindi già da questa settimana appunto nelle città del centro-nord, e poi l'idea e la speranza è quella di continuare a portare il film in giro pezzetto per pezzetto, insomma, accompagnandolo come penso si meriti di essere accompagnato. All'inizio in quante sale? All'inizio siamo in 10 sale appunto distribuite nelle grandi città. A Roma saremo da domani al Nuovo Olimpia, all'Eurcinema e al Giulio Cesare. Poi Milano, Bologna, Venezia, Padova, Firenze, appunto principalmente il centro nord. Sì. Poi all'inizio di settembre le cose, come dire così, entro le attività normali cambieranno un po', insomma si vedrà. So che dovrò accompagnare il film nelle varie città, una cosa mi fa piacere ovviamente, e assieme a me lo accompagneranno gli attori quando... Allora, ricordiamo l'uscita in sala del film L'Ospite al cinema da giovedì 22 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Duccio Chiarini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Duccio. Credi, grazie a voi, un abbraccio, ciao.